a posto? Tutto a posto, niente in ordine, campo. Oggi stasera, quando sono rientrato dal lavoro, non ti ho sentito, ma tardi è finita anche oggi. Scusami un attimo, che non ho capito perché c'era una radio accesa, dimmi. Ho detto, quando sono rientrato io dal lavoro, non ti ho sentito. Cos'è, è finito tardi anche oggi? No, oggi ho finito 7:30 regolare, alle 8 ero a casa. Mega pagato perché non ti ho sentito. E niente, andrà bene, ma oggi tutto sta, cioè, non si è sentito più quadrato, non si è sentito più branca. Si vede che non ne hanno voglia. Scusi, sì, sono tutti sciupati. E vedi, sono giornati da un travaglio. Gappa, gappa, andrà bene. Palchetto, finito a ricaricare. È una carica lunga, Devo si incarica dell'articolato. Gappa, gappa, ma andrà bene. Alleluia, e adesso subito esco, porto il vecchierino dalla suocera e niente, poi se ne parla domani. Il vecchierino dalla suocera? No, fa. Che c'è, non è lontano? Vabbè, ma tanto io devo andare a prendermi le sigarette e niente, così faccio tutto un viaggio. Ciao, e' Pombolo che non l'ho sentito. Pensa a cosa arriva e andate a mangiare sulla pizza. Pagappa. Andà bene, beh, quando bisogna caricare, bisogna caricare. E sacco vuoto, non legge. Già è vero, ma poi dopo... Poi dopo... aver lavorato tutta la giornata, già va bene. Scappa di positivo. Ho capito, lavori tutta la giornata, poi c'è pure senza mangiare, non è possibile. Oiuia, bisogna sempre mangiare qualcosa di gustoso. Cosa è andata così, mangiava la pizza. Si mangia la pizza. Gaffa, gaffa, andrà bene. Tutto tace stasera, tutto tace. Sì, sei tra fuggi, tutto silenzio. Tutto tace intorno. Vabbè, gaffa, ho spazzolato un po' in giro per essere io per il canale. E invece non c'è nessuno. Ma mano adesso a me... che dopo che caricavano entravano più su 10 e niente, io ho mangiato in questa fretta e invece loro sono belli, calmi, tranquilli. Ma perché non mi sia pure la capacità in televisione o su Sky TV? E c'è l'Inter che gioca oggi, però è su Sky. Ecco perché sparisco. Gaffa gaffa, io sai non ce l'ho. E vediamo se già ce l'hanno già. Non si è uscito. Questo, beati loro che se lo possono permettere con quello che costa Sky. Guarda, a me sinceramente le partite non me ne frega niente. Ma anche se mi sarebbero piaciute, Sky da me non aveva mai chiamato Roma adesso. Pagato, no, perché è caro, cioè mi sembra che sia intorno ai 30 euro al mese, se non sbaglio, Non lo so, no. Secondo me non gli avevo sentito così. E comunque è carino, vedersi queste partite... è troppo caro, Sono un po' negativo io per queste cose, d'accordo, ma che ci venga in posizione di pagarsi il canone e poi deve andarsi a pagare gli altri per vedere le cose, perché si vendono i diritti, non mi caserei. Cioè, da una parte lo Stato fa monopolio che deve pagare il canone, dall'altra si vende i diritti su altre cose per darli agli altri. Non mi pare una cosa, io mi pare una pigliata per un culo a me. Io adesso vado a accompagnare a loro e fra un po' arrivo, dai. Cappa, cappa. Cappa è positiva. Ultima chiamata sul binario e ci compia. Passa, cambia e chiudo. Vedi che ci sei. Cosa? Ora ci sei. Oh, io sono sempre qua, adesso stavo facendo una spatolata per tutti i canali. Io non ti ho sentito. Ma che chiamata, fate colpi di piccolo. Forse non ci sono stasera. Magari c'è qualche partita, ho pensato qualche figlio bello. Ma so che c'è una partita dell'Inter. Scusa per te che mi stavo mettendo le cuffie. Che so che c'è una partita dell'Inter. Ma non avevano là, non mi pare. No, ma ora è una Rai, ma ce lo vanno, mi pare, a Sky e su Mediaset a pagamento. Io infatti quando sono andato a fare quell'amplificatore ha telefonato l'amico di quello del negozio e gli ha detto, non ne ho, no, dice, a seconda mano, ma ce l'ho, ne ho un paio, ma sono tutti rotti, no, non servo. Cioè, fa l'abbonamento a Sky, che con 9 euro... ti danno anche il coso, il decoder, e poi se te ne vai te lo lascia. Che non funziona più perché te ne tolgo la crepitazione. Non so, so. Tu che hai detto così, siete già giocato su, anche te, anche non voi. Ma vai a darti il tuo famoso Inter, tanto bene. Ma a me non mi interessa nulla dei partiti. Io volevo già prendere tra i padri il decoder. Ah, chi andava a comprare due cose era cosa bambini a Eddie, non ha avuto senso. Tanto Eddie ingrassa, mi ha chiesto la baita, e noi rimanimmo sempre con lo stipendio. La stupidità degli italiani è quella. Queste cose ci sono perché c'è tanta gente stupida. Se nessuno invece andasse a prendere queste cose, non ci sarebbero queste cose a pagamento, perché nella presa in giro, se almeno lo Stato italiano toglierebbe certe imposizioni di pagare il canone, e uno dice, vabbè, mi scelgo una televisione a pagamento, allora sì, ma ti impongo, prima ti impongo a pagare il canone, poi si prendono i diritti alle altre televisioni, certe televisioni ti fanno una migliata in giro, capito, solo per quell'imposizione, a me non mi sta bene, e per quello le televisioni a pagamento comunque le mai. Anche come infatti non è un sociale del coda, niente, né parabola, nulla. Beh, quando è uscita la testa di Mediaset, io l'avevo presa, ma non l'avevo presa, cioè era compresa con le decoder, c'erano 10 euro di carica, ero ricaricato una volta solo di 20 euro. E la verità, guardavo qualche film che già non mi stava bene perché costavano allora 4 euro l'uno, che era esagerato secondo me, no? Che ti affitti un film in cui non me ne manco e ti abbagli la timore di voi. E comunque sta di fatto che dopo questo film che mi guardavo, 10-15 giorni dopo era a canale 5 normale. Cazzo, fermati voi, dopo me lo mandi. Dopo che io l'ho pagato 4 euro me lo mandi su un attimo normale. Ha detto aspetta, adesso me la scarico la testa. Lo sai che ho lasciato a scadere, non mangio più rinnovato, non mangio più pagata, che non mi interessa proprio. Se me lo voglio pagare un grande me l'affitto, pago, ma un bel di manco, me la paghi un attimo di voglio. E tutto quanto, però a lei ti sono di fargliore, non me la do, perché se non me la carina. Sì, no, ti sono in Sky. avanti, ma poi se uno vuole proprio, guarda, io c'avevo la testa, pagavo 90 centesimi l'affitto di una, di un film, ti puoi immaginare, se lo restituivo entro le 9 di mattina 90 centesimi. Infatti, così già si può guardare. Allora, figurati, le prime mi sono preso un sacco di prime lo stesso, e non, cioè, è un costo che può rientrare, ma fai anche che è un costo di 2 euro, si può sempre pagare, però ti la parete che ti voce voi, se non è riuscito bene, torni la rete e trovo una parità, non penso che ti pesi. Ma io ce l'ho qua, perché è qui, fatto bene, non è che ti paghi, 4 euro dopo te lo danno, non è che non è normale, lo sai che mi ha fatti. Campa campa, fatta lì, si è trovato l'inganno, a ciappa di sempre, qualche cosa, se tu lui ti fate un giro di parole e fanno capire che hanno ragione loro. Allora, siccome io sono, mi piace molto i film di Bruce Willis, no? Ed era appena uscito il film di prima TV, e io ho detto, cazzo, io mi ha baito. Proprio quel film non me lo dimenticavo mai, era il primo che lo prendeva al pagamento, nella televisione. Poi dopo 15 giorni me lo mandano al canale 5, e lì ho pagato 4 euro, 6 centavo non li pagavo, cioè è una fregatura quella che è una presa in giro per gli italiani. Vabbè, una bianca proprio barbù. È come se ti volesse una sforza, se tome, pagando proprio la giberai gratis. Ma addirittura io su internet ho trovato un film che non erano ancora usciti in onda e non l'avevano ancora mandato. Io l'ho trovato prima su internet, prima che uscissero. Sì, ma se erano fermi anche, adesso l'ho smesso, ma sai, tu non l'hai comprato e dopo l'ha già tornata a regalare. Proprio GT, ma proprio GT ha comprato a pochino, la 250 da un amico che li scaricava, non quelli che fanno qui, quelli che vedo i grilli che sono fatti con la videocamera dentro il cinema, quelli fatti sì davvero, quelli proprio belli come gli originali, e c'era un amico che me li faceva, cazzo, ne aveva poco, adesso ho smesso di prenderne perché ce l'avevo qui. E poi, tra l'altro, poi ho anche regalati. Chi? Lui. Che cosa? Quello che ne comprati le regalati io. No, poi le regalate una all'altro, ma non hai quel film, ma non hai quel film, è sbagliato, te, io, no, ma mi pare che me ne sono rimasti pochi, Una volta che l'hai visto, se proprio non ti appassiona. Io ho la collezione Dario Argento, quella non la do nessuno. Ma io non è che prendevo per collezione, poi non sai cos'è, perché sì, io di cosa ho però quelli sono registrati di voti, di cose, Thomas Miglia, non so se ti ricordi, e di cosa, come si chiama l'altro attore che faceva film polizieschi, quelli già ce l'ho qualcuno. Allora, quelli già sono bei film. A me piacciono però anche quelli di orrore. Anzi, perché orrore è terrore. Perché sono quelli Dario Argento. Mi piace proprio l'attore e mi piace lui. Mi piace le musiche, tutto quanto i film suoi. Sono belli. Tant'è vero che ho comprato tutte le sue colonne sonore, quelle dei Gobli naturalmente, dei suoi film intendo. E in più tutti i film suoi. Addirittura mi hanno iscritto al club del video per mandarmi i film di Dario Argento per non perdermene uno. Ma l'unica cosa che mi è dispiaciuto era il videocassetta che avevo prestato. La serie di Sergio Leone, non me l'hanno più restituito. Ma cazzo cadere agli altri? L'ho bussata più di una volta, però no. La sua volta poi mi ha trovato la scusa che aveva prestato, che non gli restituivano, che qua dice non so che a chi li aveva riprestati, e insomma si sono persi così questi film. Ma era io pescare a te la via lì, non ho capito. Quando a me mi prestano una cosa non è che la presta un altro, non è corretto. Mi pare se non tutta la collezione, c'è una collezione, mi pare che costa tutta completa 250.000 lire che ce l'ho io. Quello che è là. Io per dire di dare a gente, avevo sempre un'amica che veniva a casa, e dammelo una per vedere, te lo guardi qua, no, non voglio guardare a casa, con calma, va bene, e una volta, due volte dicevo, no, te ne do, se te lo vuoi vedere te lo guardi qua, quello della collezione, poi mi fai disgraziato, ma non te ne do. Un giorno per lui, e all'inizio mi ha detto, mi prendo me lo sto, e io non l'ha fatto prendere, ma la buccia all'acqua, non c'è che me ne ha durato più tanto che lo identifico. E che niente se ne ha lavato quella cacetta? E bambini, l'ho preso l'identificio e l'ho sparpagliato bene, sai cosa ho dovuto fare? Era di quelli che avevano le viti più al mare, ho smontato le viti. Ho preso la pellicola con l'alcol, piano piano mi sono appintato, la girato tutto, era tutto pieno di dentifricio, e meno male non era secco là, che ancora si poteva lavorare. E con l'alcol e il cotone l'ho tutto pulito, e dopo ha funzionato bene. Infatti, perché molte volte adesso sono vestito a dare la cosa, per quello il motivo lì, però se me l'aveva tratta male un sacco. Sì, non ti danno il dorato, ti danno il fasciato, eccetera, eccetera, infatti anche sono così. E capo, purtroppo sono così la gente, infatti non... A volte bisogna fare i tuoi e dire no, proprio un secco no, e perché anche io te lo dico, così mi viene da fare, a lui bisogna essere proprio bastardi. E purtroppo per qualcuno ci piangono tutti, ma solo che alla fine poi quando si sta andando, beh, si attende. E quello lì è, io lui guarda. Ma se non metto a parlare, la volta non vengono a chiedermi, o quando ti posso dire che ci hanno messo una serie completa di chiave beta, che ogni volta mi rimane le dita mossa. Basta da mangiare le dita, vero, basta da mangiare, fa tutta esperienza. Rientrato, sì. Capo di positivo, mi dice Gianni. Ciao, già l'ho sentito. Ciao, dottor. Ciao Mario, presidente anche a te. La sagazza, ho fatto il sito là, ho accompagnato a loro. Sono andato a prendermi pure le sigarette. A te, ma arrivata. Va. Hai capito se è arrivato o no? Mario, è arrivato o no? Cari, ma decollegli, sì? No. Mi sembrava che stavi decollando. L'aereo è acceso. Acceso, quindi sei pronto per il decollo? Le strumentazioni sono a posto. Tutte le regole, il carburante c'è. Guarda, la mia moglie dice che accendo l'aereo quando accendo le lucette blu. È pronto a rullare, allora? Su che andiamo? Questo internato non si è fatto sentire. Chi è questo internato? Gesù chiamiamo. Giuseppe sta a guardare la partita. Tu becchi l'Inter casina, becchi 5-0. Sono l'unico che dovrebbe vedere. E poco si incazza. Dio, che perde 5-0. Se l'hai già andato. Ah, perché il testa è? Qua. Ah, aspetta che adesso mi attacco a Facebook. Ma il computer non ce l'ha perché qui a casa e lì è dalla sua ce l'ha. Ma quando c'è la fottitina di Arovella su Facebook. Ci ha fregato. raggiungilo, se siamo in uno stato 10 minuti fa. E K non può più tardi, mi diverto a mettere cose sui dischi, bruia. Ragazza, sì, vabbè, una squadra vale l'altra. Ti da due, io dico, ma c'è la delega che cosa? Vengo da me di finita. Mi Gianni è tifoso. Gianni è tifoso del Milan. No, ragazzi, ti fa quello di là, se ti con i russi. A parte sai che Gianni si è dormito. No. Ti pagano la tangente, ti danno mica che cosa, dici, allora mi devi dire, allora chi ti arrabbiati così? Comunque Gianni, ascoltami, ma mi senti bene in radio? Gianni? Eh? In radio mi senti bene? Sì, sì. Non c'è niente di strano? Vabbè. Per poter piazzare il tutto. KK, sì, no, ma domani dovrei fare per forza, poi no, quel pacco lì hanno anche come si chiama? Sono ritracciabili, hanno il numero. Quindi è tutto a posto. Oh, domani deve arrivare qua in posta perché è in consegna quella lì. Ma speriamo bene, Bobolo. Speriamo bene, almeno così. Sabato e domenica prepariamo il tutto e niente. Si va e si piazza. E scappa. E voi fa schiatta. Diciamo che non faccio schiattare a nessuno io, però mi faccio sentire. Ma no, va bene. È una cosa così, dai. Affagliata. Lavorai. Ando. Ci sentiamo tutto domani perché sono un po' stanco. Adesso mi tiro la caffeina e mi sono vado tutta quanta nata. A domani, a domani. Ciao, ciao. Ciao, ciao Mario, dai. Mi ha chiamato e non è rifuso. Mi sono subito un po'. Buonasera. Buonasera, buonasera. Un po' stanchino sono oggi, ho fatto un po' di consegne stasera. Usa la poltrona, almeno non ti addormenti. E potrei anche sedere sopra il letto. A me non ti addormenti. Ma non mi riposo nemmeno. Non devo riposare. Riposare si riposa. Così sdraia, può parlare anche mentre si riposa. No, io invece mi siedo. Mi siedo, o no, meglio così. Un ricatto non mi piace. Mi rilascio a tutto. No, a me non piace. Non piace, non piace perché... vedi, come è successo poco fa. Ho paura che succeda sempre qualcosa. C'è una tormenta? No, mi devo occupare, ho schiacciato la portata e mi sono accorto che andava a fondo scala. E te l'ho detto a cosa? C'è il piede mollato. Sono tutte cose, io temo un bel qua. Già temo tantissimo, no, non sono tranquillo io quando muoio. Perché? Quella c'è la tormenta? Io sono... cioè, sono un pochettino in condizioni così, non è che... Non devo... Devo starci molto attento. Cava. Per prevenire è meglio che curare, direi. Cioè, fai questo che io non mi coppo. Ma che devo avere tutto sott'occhio? Io qua c'è quanto sotto che non sei stato illuminato anche. Cava. Oh, non lo so, ma no, non sto tranquillo. No, non sto tranquillo. Vabbè, ognuno ha il suo carattere. E vabbè, non stai tranquillo perché sai che ogni giorno devi smontare, devi fare, magari smontando, rimontando, qualche piede ti parte, qualche cosa e ti può dare problemi, dai. No, vabbè, per quello che sto attento, non è che do molta attenzione a queste cose. Paga via. Intanto il carretto se ne sono andato. Scappa, il babbo se ne è andato. Se lo sapevo non l'avrei fatto manco accedere perché non mi ero accorto che ero così stanco fino al momento che mi sono sdraiato. Scappa. E pure io c'ero un po' anche il tradotto. Mi ha levato un culo, E ci credo. Anche io ci sono andato bene. Avevo mobili da consegnare, se li ho consegnati, sono uscito fino a San Giovanni. Oggi di tutto il più, dai. Sì. Oggi era una battallata, sempre corretto. Vabbè, purtroppo. Vabbè, pazienza. Bisogna essere. essere forti e continuare ad andare avanti. Ah sì, non muore nessuno. Il travaglio non ammazza nessuno. Oh, anzi. Anzi. Io non lavoro a problemi di salute, nel senso che si vede esaurimento, eccetera, eccetera. E quello è. Capo, mandronia, eccetera, eccetera, pure. Come te lo vogliamo? Non per niente che così. Vabbè. Vivo la giornata, però poi si rende conto quando è grande, non ha bisogno di niente. Bene. Eppure ti dico una cosa. Mannaggia, vai. Perché? Hai toppato! Mannaggia, vai.